con il regista Roland Seiko per parlare del suo documentario Come vincere la guerra a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, il prossimo 21 settembre. Roland, ben trovato. Grazie Federico, bentrovati. Presentaci questo tuo lavoro. È un documentario che è nato da una ricerca, un documentario da me dire particolare, anche se lo considero tale, perché è stato costruito con dei materiali di repertorio mai visti in Italia. La Prima Guerra Mondiale è stata raccontata un po' da tutti i punti di vista, però i materiali di illustrazione di questa guerra sono quasi sempre gli stessi. In questo caso, visto il tema che è l'entrata in guerra degli americani, la ricerca è stata estesa agli archivi americani e sono venuti fuori molti materiali, molto inediti, sul contributo degli americani nella prima guerra, ma assolutamente anche sul fronte italiano e sul fronte occidentale, visto dalle cineprese americane. In questo aspetto, questo racconto, che vuole essere un po' sì una illustrazione del momento dell'entrata in guerra degli americani, si concentra all'ultimo anno della guerra in Italia e sul fronte occidentale. Da Caporetto in poi, tutto l'ultimo anno, dal novembre 17 fino al novembre 18, con la fine della guerra, il racconto cerca un po' di identificare quali sono i punti salienti che portano poi alla fine della guerra. Com'era nata questa tua idea? Ma non è proprio una mia idea, è nata da questa ricerca che l'Istituto Luce, assieme alla Cineteca del Friuli, ha fatto ai National Archives di Washington. Poi il Comitato per celebrazione degli anniversari nazionali ha chiesto all'Istituto Luce se c'era la possibilità di poter raccontare un documentario con questi presupposti, e abbiamo visto che non solo c'era la possibilità, ma si poteva costruire un bel documentario che desse, in un certo senso, un'idea dell'ultimo anno della guerra da un punto di vista, come ho detto, inedito. Che mosaico è questo delle riprese statunitensi? Loro raccontano un po' le loro preparazioni in guerra, raccontano la propaganda che ha preceduto l'entrata in guerra degli americani. Proprio nella propaganda, forse, c'è stato un momento di concentrazione anche da parte di me e degli altri due sceneggiatori, che sono Gabriele Dautilli e Luca Giuliani, due storici, un archivista. E in questo aspetto della propaganda si vede tutta l'inclusione di tutti i mezzi di comunicazione che l'America mette in campo, incluso Hollywood. Infatti ci sono riprese bellissime di Chaplin o di Mary Pickford o di Douglas Fairbanks, che incitano la folla per partecipare all'acquisto dei buoni di guerra. Poi c'è tutta la preparazione, la creazione di un esercito che l'America mette in piede. Poi c'è assolutamente la loro attraversata, l'arrivo, l'impatto del fronte occidentale agli americani, che arrivavano in una guerra che non gli apparteneva, e alla fine anche il loro ingresso in Italia. In tutto questo discorso storico fa da sfondo la situazione in Italia dopo Caporetto. Altri archivi, come quelli dell'Istituto Luce o archivi francesi e inglesi, aiutano un po' a creare l'atmosfera proprio di questo ultimo anno della guerra. Quali sono gli elementi che più ti hanno impressionato di questa ricerca, di quello che hai trovato? Di sicuro l'aspetto cinematografico della rappresentazione della guerra da parte di tutte le parti in campo, specialmente quella americana, che mettono in funzione una serie di eventi, coinvolgono una serie di persone per costruire proprio un gruppo che deve soltanto rappresentare la guerra attraverso la macchina da presa. In mezzo a questo c'è anche Hollywood, come dicevo, che cerca con Griffith o con altri grandi registi di poter dare un contributo alla propaganda. Chaplin, Griffith, tutti gli altri, e i Signal Corps, che mettono su tutto il percorso di riprese, sia in America che sul fronte, faranno sì che l'America cominci a creare una specie di troupe speciale per le riprese delle guerre, la stessa che 20 anni dopo, durante la Seconda Guerra Mondiale, arriverà e ci darà quelle riprese che sono sia degli sbarchi in Italia che poi di tutta la campagna in Francia o altri teatri di guerra. È lo stesso Hollywood della partenza di quello che negli anni 40 praticamente avrà a fianco degli operatori, registi come Frank Capra, John Huston e altri di questo calibro. Dopo questa presentazione del 21, che percorso farà il documentario? Il documentario è stato presentato per la prima volta 4 mesi fa al Festival del Cinema Ristrovato di Bologna. Adesso ha cominciato un tour in tutta Italia, è stato presentato alla Cineteca di Milano come inizio di questo tour, poi a Bergamo, poi a Padova, l'altro ieri era a Firenze dove è ancora in programmazione, domani sarà a Roma, poi farà un tour in tutto il Friuli che è la zona di guerra. Per tutta la prossima settimana sarà a Udine, a Pordenone, a Gorizia, a Monfalcone, a Trieste. Ci lasci dei riferimenti web per saperne di più? I riferimenti web sono sempre quelli dell'Archivio Luce e dell'Istituto Luce, cinecittà.it, cinecittaluce.it e archivioluce.it. Perfetto, allora ricordiamo l'appuntamento con il tuo documentario Come vincere la guerra a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, il 21 settembre. Un saluto e un ringraziamento al regista Roland Seiko. Roland, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie Federico, un bocca al lupo. Ciao. A te.